quelle a cui non credi più, non credi più. Le cose vere nel buio vuoto di ogni giorno. Le cose vere sono rimaste in poche. Questo tempo falso le ha ridotte all'estinzione, le ha corrotte tutte le altre. Nascosto nelle stanze d'un castello diroccato, mentre fuori il cyberpunk invade un mondo impasticato. Non ne prende ragione, invece ne prendo atto. Intono il melodramma quando dici che è peccato. E mandi tutto alla malora e ridi, tanto ormai va così, tutti rassegni e vivi. E ciò che al tirassegno sono insulsi bersagli, sono pagati gli avversari, programmati i loro sbagli. Chi giudica le tasche piene quanto le mie palle, la moralità è calpestata d'arte, è tempestata d'artefatti discorsi. In un mondo artificiale sono i morsi della serpe, il veleno è letale. Tale padre, talentuosa stipe infame, sporca madre terra, ogni figlio d'un cane. Riesce ad andare avanti se la mette in culo agli altri. Ok, fate un bel trenino tutti quanti. La meglio troia è la locomotiva, perversa comitiva dalla quale sono estraneo, perché credo come prima a cose a cui non credi più, a ciò che c'è rimasto di vero. Quando anche tu sarai la sua, osserverai questo girone di beati dannati che fanno a gara chi si comprerà la più lussuosa bara. E la realtà è fin troppo chiara e non ne tengono alcun conto, perché breve la vita ma quanto amara. Le cose vere sono poche, la gente che non le ama. Le cose vere, quelle a cui non credi più, nella decadenza sono un raggio di luce nel buio vuoto di ogni giorno. Tengo a cuore solo cose vere, non posso confonderle in sapore loro ricordo. Le cose vere, quelle a cui non credi più, nella decadenza sono un raggio di luce nel buio vuoto di ogni giorno. Tengo a cuore solo cose vere, non posso confonderle in sapore loro ricordo. La mia generazione non vuole essere, vuole apparire per non patire, vuole essere, vuole sparire. Non vuole essere implicata ma vuole capire, ma vola spesso giudicata fino a scomparire. E spesso troppo scoppiata e fatta da morire. Ci han detto che la droga e l'alcol fanno divertire, ci han fatto a calcolo se ti salgono le droghe a mille. Han fatto un calcolo e qualcuno lo fanno impazzire. E quando salgo sopra il palco che mi inalbero, io voglio cose vere dalla vita ma non scandalo. Mi si buca il sandalo in questo cammino, non ricerco un angelo, un amico, basta che stia vicino. Che ti chiuda all'angolo, se fai il cretino. Sangue del mio sangue, senza pugnalarmi a un fianco se mi giro. Come voglio una ragazza che mi apprezza e che mi aspetta, che non conta se io pago il prezzo più alto in discoteca. Una tipa che mi ama, che mi cerca e che mi quieta, non una puttana alla ricerca della mia moneta. Come voglio una famiglia, padre, madre, figli e figli. Voglio essere anche nonno un giorno con i nipotini sveglie. Che non creda a questi gangster con le macchine e i gioielli, che si fingono leoni mentre dentro sono agnelli, che si facciano i milioni, non mi importa manco quelli. Perché sono le cose vere, sono il re dei più mastelli, sono quelli i miei valori, e ogni balla la si sgama. Le cose vere sono poche e la gente non le ama, sono questi i miei valori, e ogni balla la si sgama. Le cose vere sono le sole che ci salvano dal dramma. Le cose vere, quelle a cui non credi più, nella decadenza sono un raggio di luce nel buio vuoto di ogni giorno. Tengo a cuore solo cose vere, non posso confonderle in sapore loro ricordo. Le cose vere, quelle a cui non credi più, nella decadenza sono un raggio di luce nel buio vuoto di ogni giorno. Tengo a cuore solo cose vere, non posso confonderle in sapore loro ricordo.